Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci come vuoi. Buongiorno amici, accomodatevi nel nostro salotto buono, si apre una nuova puntata di Questa casa non è un albergo. Seduta accanto a me Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti e buon anno. Oggi parliamo di pace e quindi parliamo anche di litigi. Eh sì, io credo che sia ogni medaglia certo. alle due facce. Perché ci sia una situazione di tranquillità, pace e serenità, bisogna affrontare, saper affrontare il conflitto e saperne uscire bene, altrimenti è rissa continua. Tu come te la cavi? Ma devo dire che in casa bambini mia bambini piccoli, litigi piccoli. Litigi piccoli, e poi credo che ci sia una buona intesa di coppia su questo aspetto. Cioè i bambini sanno che quando la mamma e il papà per esempio litigano, sanno entrare nel conflitto e ne sanno uscire. Non siamo mai rimasti così in difficoltà di fronte a un litigio di famiglia, e più o meno facciamo così anche con loro. Abbiamo buone regole per la gestione dei litigi. Il più grande ha 9 anni, a volte ci sembra già di essere di fronte a un piccolo adolescente. Ai ai ai ai ai. Allora, io volevo subito salutare il nostro ospite, il dottor Daniele Novara, pedagogista, dirige il Centro Psicopedagogico per la Pace e la Gestione dei Conflitti. Buongiorno, dottore. Salve, buongiorno a tutti. Lei ha appena pubblicato per Franco Angeli un libro che si intitola Dalla parte dei genitori. Lei è un genitore anche? Sì, sì, mia figlia è grande, però è già sui 21-22 anni. Perché dalla parte dei genitori? In che senso? Beh, il titolo fa un po' il refrain del famoso libro Dalla parte delle bambine degli anni 70. Oggi ritengo che l'elemento debole della nostra società siano proprio i genitori, e quindi ho pensato di fare un libro con questo titolo provocatorio. È un momento di fragilità per i nostri genitori, e quindi vanno aiutati, assolutamente non vanno colpevolizzati, perché già vivono una debolezza piuttosto sostanziale, quindi è un libro che va in loro soccorso. Ecco, per genitori in difficoltà. E quindi se siete in difficoltà o invece non lo siete affatto e volete darci un po' la vostra ricetta, 800 24 00 24, i messaggi al 349 238 6666. Abbiamo Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, Giorgio De Luca in assistenza, il nostro centralino pronto ad accogliervi. E io direi, Alberto, andiamo a sentire la mail che ci ha un po' ispirato il tema della puntata. In casa nostra sembra che sia scoppiata la guerra. Io litigo con mia moglie, che sempre più spesso grida con mio figlio, che a sua volta, dopo aver compiuto 15 anni, chissà come mai, ha cominciato ad alzare la voce con tutti. Quindi potrei dire, come padre, che in questo momento ho in casa due problemi. In casa nostra si urla troppo. Tutti sono arrabbiati con tutti, molto spesso. Ho provato più volte a obbligarci a una tregua intorno a un tavolo, ho provato a chiedere perché da qualche mese tutti in casa alzano la voce. Ma in queste sedute di pace, dopo pochi minuti, tutti stanno già urlando con tutti. E la cosa finisce lì, in un gran fallimento. Cosa ci è successo? Perché l'adolescenza di nostro figlio ci ha reso tutti così urlanti e in conflitto? Alberto, sembra un po' quelle risse nei saloni, iniziano due e poi tutti si azzuffano. Ed è, credo, una storia frequente nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Almeno io sento tante mamme e papà che alla fine dicono proprio: non ce la faccio più, perché anche a voler litigare dopo un po' stiamo tutti urlando a tale livello che non riusciamo più a sentirci. Per cui la televisione ispira. La televisione probabilmente ispira. Abbiamo bisogno delle vostre storie di litigi in famiglia, cioè provate a raccontarci. Cosa è successo l'ultima volta che in casa stavate gridando con un figlio? Come sono andate le cose? Se voi siete soddisfatti del vostro modo di litigare in famiglia, se riuscite in qualche modo a trovare poi un modo per comunicare in modo efficace con vostro figlio anche di fronte a una crisi, oppure se a casa vostra tutto si chiude con gran sbattimento di porte, tutti che gridano e ci vogliono giorni e giorni per riportare la pace. Dottor Novara, ascoltando la lettera del nostro papà, che sembra veramente in grande difficoltà, non riesce a mettere il nuovo pace in questa famiglia in cui si accendono le litigate furiose. Che cosa ha pensato subito? Un papà in crisi, ma perché lui dice tutto parte dall'adolescenza di mio figlio che ci ha messo in crisi? Che cos'ha l'adolescente di così caratteristico, particolare, che riesce ad alterare proprio degli equilibri anche genitoriali, di coppia, di comunicazione e relazione? In sintesi direi questo, che l'adolescente cerca di allontanarsi dai genitori, ma oggi i genitori non consentono molto questo allontanamento e anche la nostra società non ha messo in atto nulla per favorire questi allontanamenti, diciamo così, protetti e rituali, per cui alla fine lo scontro diretto appare una delle poche soluzioni che restano ai nostri ragazzi per staccarsi da questo nido familiare che a volte risulta troppo soffocante, non dimentichiamo che tanti sono anche figli unici. A quel punto il litigio diventa una sorta di colpevolezza e quindi si catena proprio la rabbia del cercare il colpevole, per cui il problema non è più il contenuto specifico del conflitto, ma direi l'adolescente in sé per sé, il suo essere diverso e il suo essere provocatorio, in un certo senso il suo essere adolescente, per cui bisogna lavorare su quest'idea che l'adolescenza è in effetti un'età particolare in cui i ragazzi cercano distanza, non cercano di essere vicini ai genitori come vorrebbero i genitori, che li pensano ancora piccoli, dei piccoli cuccioli da coccolare, ma se ne stanno andando ed è giusto rispettare questa loro iniziativa evolutiva, direi. Sì, però si potrebbe anche andarsene, allontanarsi gradatamente senza proprio tirarsi senza piatti urlare in testa, Alberto. Direi che alcuni genitori, mamma e papà, con cui parlo frequentemente anch'io, sono molto disorientati da questo fatto, cioè raccontano: quando io ero un adolescente, se mio papà alzava la voce, in casa calava il silenzio. La sua legge era in qualche modo, la sua parola era una legge, era un ordine, e i litigi finivano in fretta. Bisognava oppure obbedire le occhiate della mamma. Invece adesso si trovano in casa dei veri e propri guerrieri, cioè persone che stanno davvero lì davanti a loro e quasi combattono ad armi pari. Credo che questo che un po' disorienta mamma e papà, perché alla fine è come sentirsi dire: io sono quasi potente tanto quanto te. Sfidanti. 800 24 00 24, io vorrei proprio sapere dai nostri amici a casa se si ritrovano nel profilo descritto da Alberto. Dottor Novara, sì. Siamo cambiati così, è vero, un tempo l'occhiataccia della mamma, il certo, papà che alzava la voce, bastava. I ragazzi sono più attrezzati dei loro genitori nell'affrontare i litigi, nell'affrontare i conflitti. Questo è un dato di fatto che noi continuiamo a riscontrare. Nella memoria dei genitori di oggi c'è l'occhiataccia, c'è lo dico col papà, e quindi questo metteva il coperchio su tutti. Nella memoria dei nostri figli c'è il papà peluche, la mamma tenerona che lo tiene nel lettone fino a 6 anni, e quindi c'è tutta un'altra memoria, per cui per il genitore è scioccante il ragazzo che in qualche modo esce da questa morbidezza e si propone come un lottatore. Ma però ribadisco, occorre lavorare su questo, perché non c'è niente di male se non nello spaesamento dei genitori rispetto a questa situazione. Ci stanno arrivando molti sms, ne recupero subito uno del dottor Barba di Firenze, che in realtà anticipa la domanda che stiamo per fare anche a voi genitori: per quale motivo si litiga in casa vostra? Ci chiede proprio un censimento dei motivi e saremmo incuriositi dal saperlo. E intanto Enrico di Rimini, senza saperlo, dà già una risposta, perché dice: all'origine ci sono sempre questioni legate ai soldi, alla paga e a tutto il resto. E mentre un altro nostro ascoltatore ci dice che il problema del quindicenne che grida è la mancanza di autorevolezza e rispetto per il padre. Questa casa non è un albergo. Litighiamo oggi, poi cerchiamo di fare pace, ma in modo costruttivo. Tante volte invece i litigi familiari si trascinano, modificano proprio l'atmosfera e la relazione che c'è tra noi e i nostri figli, e anche tra noi, proprio all'interno della coppia. Alberto, ci sono numerosi messaggi, mi piacerebbe dare spazio a quello di mamma Maria. Vuoi leggerlo tu? Sì, dice che dal 1° di gennaio aveva avvisato il figlio 18enne che cambiava registro per un'offesa che lei ha subito dal figlio. Ha chiuso la comunicazione. Adesso si sente il suo secchio dell'immondizia e non sa per quanto tempo deve andare avanti questa lezione, cioè di non comunicazione con un figlio per insegnargli qualcosa. Lei cosa ne pensa, dottor Novara? Beh, questa si definisce una sanzione affettiva ed è comunque una delle poche risorse dal punto di vista sanzionatorio che hanno i genitori: sospendere la relazione. In genere funziona, ovviamente non deve essere una situazione che si prolunga all'infinito, perché poi diventa problematica anche da gestire. Qualche giorno è sufficiente? Sì, ma anche un giorno. Un giorno va benissimo, va utilizzata, ecco, anche con una certa cautela, perché non deve risultare una forma di vendetta, ma deve risultare una forma di sanzione, specie se le regole sono state trasgredite. Il problema di fondo è probabilmente proprio questo, che a volte non c'è chiarezza nelle regole date, anche sulla base dell'idea un po' stereotipata che tanto finché sono bambini riusciamo sempre a convincerli, magari con una sgridata, ma quando sono ragazzi ovviamente non può più funzionare così, ma ci si attarda a mantenere lo stesso schema, quindi a pensare che torna presto sia un'indicazione regolativa. Invece bisogna dire esattamente l'orario ed essere molto molto chiari, negoziando le regole in maniera molto definita e molto precisa. Ci scrive Paolo da Roma: in casa nostra non si litiga con un figlio, ma per il figlio. Nostro figlio ha 15 anni e io e sua madre non siamo mai d'accordo sulle regole educative. Questa è un'altra situazione di conflitto frequente nelle famiglie con gli adolescenti. Sì, questa è in realtà la situazione grave per antonomasia, quando manca proprio la coesione educativa fra i genitori. Questa è la situazione più grave, perché crea molta insicurezza nei ragazzi che utilizzano, come dire, queste due sacche, una volta la papà, una volta la mamma, magari anche per chiedere soldi, per chiedere permessi, per chiedere autorizzazioni, e i genitori invece di fare, come dire, un legittimo fronte comune, una legittima coesione educativa, in qualche modo si divertono a farsi lo sgambetto e viceversa risultare più rigidi o più teneri a seconda dell'umore, certo, a seconda dell'emozione del momento. Abbiamo Roberto che ci chiama da Milano, ma io vorrei prima leggere a raffica, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, intanto inizio a salutare Roberto, buongiorno. Ciao Nicoletta, sono Roberto D'Anchise. Ah, professor D'Anchise, buongiorno, che bello averla con noi. Allora, professore, intanto le leggo alcuni dei motivi che accendono i litigi. Ce li hanno mandati via SMS al 349-238-6666 i nostri ascoltatori. Soldi, ci sono diversi SMS, le uscite serali e i rientri, i voti a scuola, le amicizie, l'utilizzo smodato del computer, telefonini e bollette. Insomma, abbiamo già fatto un elenco, vediamo che ci sono vari motivi o più motivi. A lei come va a casa, professor D'Anchise? Motivi? Praticamente. Tutti questi? Volevo fare un'osservazione. Grazie. Uno dei grandi, la grande forza di questi ragazzi, secondo me, è che noi quando litighiamo rimaniamo turbati, ne discutiamo marito e moglie a lungo. Loro, finito il litigio con i genitori, hanno la loro vita e sono molto più sereni. Questo secondo me per loro è una grande forza, nel senso che per loro il litigio non è qualcosa che li turba profondamente, è un meccanismo, un combattimento, come si diceva prima, dal quale loro escono vincitori o vinti, ma che poi dopo non lascia il segno, mentre per i genitori lascia il segno, ed ecco poi che avvengono anche delle difficoltà fra i genitori. Non so cosa ne pensate. Ma vede, i medici di Essere Benessere, oltre a essere dei professionisti a 5 stelle, sono dei genitori molto attenti. Alberto. Sì, io credo che questa osservazione sia proprio illuminante, cioè anche dopo un grande litigio un adolescente sta molto nel qui ed ora, quindi lui è capace di prendere, uscire di casa, rimettersi proprio sereno con i suoi amici, tornare in casa come se niente fosse. Il problema è che invece nei genitori tantissime volte quel litigio entra dentro un sistema di ideali, di valori, di credenze, di modi di essere, per cui per spegnersi a volte ha bisogno di giornate e giornate, e in questo senso dovremmo proprio a volte imparare un po' dai nostri figli a stare nel qui ed ora, a non ingigantire le cose e soprattutto un litigio a non farlo durare giornate e giornate, perché credo che questa sia la cosa peggiore. Però confrontiamoci anche col dottor Novara. Sì, vi vorrei riportare i dati di una recente ricerca che abbiamo realizzato proprio come istituto che dirigo sul tema degli insulti che gli adolescenti rivolgono ai genitori nella fascia dai 15 ai 17 anni. È molto interessante perché, e forse conferma anche la telefonata di prima, soltanto il 23% di questi ragazzi italiani non insulta mai i genitori. Quindi sono una minoranza. Per gli altri risulta abbastanza normale, diciamo così, ogni tanto, forma comunque non eccessiva, utilizzare questo attacco che possiamo definire insulto, che rappresenta una modalità per il ragazzo abbastanza comune a livello comunicativo, che però spesso dal genitore, giustamente, dico io, viene vissuto come una forma di delegittimazione. C'è un genitore proprio... Un genitore si sente fatto fuori da una... Esatto. Professor D'Anchise, lei che cosa ne pensa? Quello che ho trovato molto giusto, e quello che spesso dico a mia moglie, è che noi non dobbiamo farci fregare, nel senso che noi dobbiamo usare lo stesso percorso loro, cioè la lite deve terminare, quando è terminata la lite dobbiamo magari analizzarla tra di noi, ma poi dopo i genitori devono capire che non devono essere sopraffatti da questa situazione, credo che sia molto importante. Non è facile, no. Perché purtroppo... Altra osservazione è l'offesa qualche volta non deve mai essere fatta, e su questo sono perfettamente d'accordo, però qualche volta è anche mirata giustamente, cioè il genitore qualche volta dice delle cose che il figlio non accetta, e sì, ha ragione di non accettarla, si esprime male, però c'è la colpa del genitore che considera il figlio una persona alla quale può dire, può fare tutto, e lui reagisce, non so se rendo l'idea. No, l'ha resa perfettamente. Professor D'Anchise, oltre che a venire a parlare con noi di ortopedia e di ginocchio, lei dovrebbe venire a parlare anche un po' a questa casa, non è un albergo. La invito per la prossima settimana. Va bene, okay. Grazie professor D'Anchise. Abbiamo numerosi ascoltatori in linea, Roberto da Verona, Anna da Latina. Devo dire che ha scatenato molti messaggi la nostra affermazione, l'affermazione del dottor D'Anchise, che diceva appunto i ragazzi poi finiscono escono dal litigio e fanno altro e noi rimaniamo accartocciati. Molti messaggi dicono: ma come, io ero devastata dopo i litigi con mia madre, come scrive Giuliana, oppure no, anche i ragazzi soffrono ma non lo danno a vedere. Di questo parleremo. Intanto Roberto da Verona, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti quanti, e un complimento per la trasmissione. Allora, io ho 42 anni, ho due bambini, uno di 6 anni e uno di 9, forse magari un po' piccolini ancora per l'età che state parlando voi, però io vedo già a questa età, se si impuntano su qualcosa e non si riesce proprio a farli cambiare idea, a volte io e mia moglie scendiamo addirittura a ricatti. Non so se insomma, le tentate tutte. Le sentiamo tutte. Non so cosa in futuro cosa devo aspettarmi, perché se già 6 anni uno si impunta perché vuole una cosa e la deve ottenere, e che poi non è che siamo i genitori che non danno mai niente, noi diamo tanta attenzione a loro, forse più a loro che noi stessi a volte. Allora senta Roberto, abbiamo due esperti, Alberto Pellai e il dottor Novara, lei ha due figli, quindi uno per bambino. Dottor Novara, un consiglio proprio pratico, lei che cosa farebbe e che funziona, cioè una strada da percorrere? Il bambino di 6 anni ovviamente ha una tendenza molto forte all'ostinazione e quindi non si può reagire all'ostinazione con un'altra ostinazione. Il buon senso ci porta a dire che è necessario mettere una regola chiara, per esempio quando si va al supermercato, indicazioni chiare sul comportamento da tenere, ma specialmente anche in questo caso organizzarsi bene nella coppia dei genitori in modo di non lasciare troppa possibilità di alternanza affettiva ai figlioli, perché anche sull'ostinazione, se gli adolescenti sono più preparati dei genitori sui conflitti, i bambini sono più preparati dei genitori sull'ostinazione. Oh, perché è vero, sante parole. Quindi ecco, questo è il loro punto debole, becchiamoli qui. Alberto. Ma io dico che in famiglia ci devono essere pochi no, ma quei no valgono proprio in modo sistematico. Ci sono poi dei no che potrebbero diventare sì a seconda delle situazioni, e dei sì che potrebbero no, diventare no. Il fatto è che se tu mi stai chiedendo una cosa su cui abbiamo un sistema di regole che ha già parlato chiaro, tu questa domanda non la puoi più fare, e se vai avanti a farla devi metterti da parte, perché noi abbiamo proprio un angolo del castigo in famiglia dove bisogna andare fino a che non ci si è calmati. Anna da Latina, buongiorno. Buongiorno a voi e complimenti soprattutto per l'argomento che state affrontando. 3 figli, 3 età diverse, distanza di 10 anni tra uno e l'altro, esigenze diverse, l'unico punto comune è il fatto di sfidare quella che è l'autorità materna in questo caso, perché sono una donna separata. Sì. Quindi 3 figli che il no non l'accettano, fino a che non capiscono che è determinato, cioè che non, appunto un no non diventa sì, se no è no, ed è inutile insistere. Ultima discussione stamattina con mia figlia che ha 10 anni, per una banalità che era il compito, dove lei continua, ma lo faccio tra un attimo, no, lo fai ora. E quindi diventa una lotta fino a che non si ripete il discorso, guarda, quando è no, no, fai ora questa cosa. Sono d'accordo con la persona che parlava prima, che diceva a volte il mi può diventare sì, ma non su regole basilari. Non è facile. Grazie Anna, i compiti li ha fatti sua figlia stamattina? Li sta facendo. Ecco, allora, complimenti Anna, un saluto alla sua bambina, grazie, buona giornata. Grazie a voi. Questa casa non è un albergo. Ci siamo tornati insieme e è entrato in questa casa non è un albergo anche Giovanni da Milano. Giovanni, benvenuto, si accomodi. Buongiorno a voi, mi chiamo Giovanni Castellani. Sì, buongiorno. Mi sentite? La sentiamo un po' malino, ma adesso guarda, prova un po' a parlare che così la recuperi. Io. Va bene. Mi sentite meglio? Sì, ok. Ci racconti. Allora, chiamo perché mi sembrava una coincidenza un po' particolare. Io sono un educatore di un'associazione di Milano che è Coscienza e Salute. Sì. E vengo proprio fuori da un corso che fa parte di un progetto finanziato dalla Regione Lombardia che si chiama Famiglie Consapevoli. E ho finito in questo momento un corso con delle mamme che hanno problemi di cui state parlando voi adesso, quindi litigi in casa, difficoltà a mantenere la calma, eccetera. E volevo portare appunto un'esperienza, mi è interessato molto quello che si diceva prima, che le urla adesso non hanno più effetto sui propri figli, no? E una delle cose che stiamo osservando è che se un tempo i nostri nonni, i nostri vecchi utilizzavano come forma di comunicazione per richiamare l'attenzione l'urlo e su e lì ci si fermava, ora in un mondo dove si urla sempre di più, dove l'urlare è diventata la consuetudine, è chiaro che questo mezzo che un tempo aveva un valore, una potenza, ora lo si disperde, ovunque accendiamo la televisione su tutti i canali si urla, cioè, sì. Il mezzo di comunicazione più frequente, no? Senta, ma lei allora che cosa ha consigliato alle mamme? Allora, le mamme, noi stiamo facendo un lavoro stiamo osservando che la difficoltà di comunicazione all'interno della famiglia, che poi genera tutti i conflitti tra familiari, dipende da un'incapacità ad essere attenti e a conservare la peculiarità dell'ascolto attivo. Cioè effettivamente osservare se la persona con la quale stiamo parlando è pronta a accogliere la nostra comunicazione, perché se una persona sta pensando ad altre cose, è distratta da altre cose, noi parliamo e la persona percepisce una parte di quello che noi diciamo, poi su questa incomprensione, su questa comunicazione non completa, poi nascono fuori tutti i problemi. Quindi allora, cogliere il momento adatto e per catturare l'attenzione, e questo è il fondamento anche di una buona relazione. Grazie Giovanni. Alberto, vuoi fare un commento? Perché abbiamo anche Alessio che ci chiama dalla provincia di Como. Penso che un consiglio concreto per i genitori è che quando state urlando tutti, quello non è più il momento per continuare un litigio, bisogna che qualcuno proprio utilizzi un pensiero superiore, fermi tutto, congeli tutto, ognuno va nelle sue stanze, ci ritroviamo fra 2 ore, probabilmente con gli animi un po' più sopiti, e si riparte da capo. Questa è la tua strategia, vediamo se Alessio dalla provincia di Como ha da suggerirci una ricetta per litigi costruttivi e soprattutto litigi che non lascino quella ruggine che poi avvelena le relazioni. Alessio. Buongiorno. Buongiorno. Allora io volevo portare la mia esperienza. Io ho due bambini, ho due ragazzi, uno di 11 anni e una ragazza di 14. Quello di 11 anni è un po' più malleabile, quella di 14 già siamo nell'età dell'adolescenza ed è ribelle. Sì. Allora, premetto che non lo dice però Alessio con una certa soddisfazione. Sì, sì, no, ecco, io quello che, allora, con mia moglie, per esempio, non ha mai creato litigi tra me e mia moglie, solo che con mia moglie sono due guerrieri, e quando uno perde, che soccombe, chiaramente ci rimane male. Certo. Con me, che mi comporto da capo guerriero, io porto sempre la mia esperienza, con me si comporta in modo totalmente differente, mai un litigio grande, mai niente, io mi comporto solo castigandoli. O lasciandoli commettere i loro errori, che poi li pagano cari. E da lì vedo che imparano, vedo almeno la ragazza imparare. Cioè, lei è un padre castigo? No, io ho un padre castigo. Ah. Per esempio, come le dico che non ha mai avuto un litigio grande come con mia moglie, a me basta dire, guarda, un esempio banale, no? Se con me litiga, dico, guarda, stasera non vai a mangiare la pizza, chiusa la storia. E con me la ragazza ha un buonissimo rapporto, mentre con mia moglie soccombe spesso e volentieri anche per banalità, hanno delle discussioni allucinanti. Ok, questo è il suggerimento, la strategia di Alessio. Chiediamo al dottor Novara se il fatto che in famiglia ci sia un genitore proprio che presidia la regola, il castigo, e un altro che invece riesce più a far sfogare un figlio quando è così pieno di rabbia, può essere una situazione utile dentro una coppia genitoriale. Ma di per sé non ci sono controindicazioni particolari, mi faceva un po' specie la soddisfazione del signore di Alessio, che sembrava soddisfatto del fatto che lui otteneva di più e la moglie di meno. Occorre sempre cercare una condivisione educativa. Io nel libro questo l'ho definito il paterno educativo, perché l'adolescenza è il momento del padre, diciamo, e oggi i padri sono quelli più in crisi in assoluto, e allora bisogna cercare questo paterno condiviso. È necessario fare squadra anche in caso di separazioni, mi riferisco alla signora di prima, perché o la signora decide di fare anche da padre alle sue figlie completamente da sola, oppure bisogna fare squadra, non ci sono scorciatoie da questo punto di vista. E vorrei dire un'ultima cosa, le urla con l'educazione non hanno niente a che vedere, devono essere assolutamente un'eccezione, mentre purtroppo nella primissima e nella prima infanzia sono di uso molto molto comune, purtroppo funzionano anche, quindi si pensa di usarle anche nell'adolescenza, e lì c'è il tracollo. Occorre prendere tempo e specialmente lavorare sulle emozioni dei genitori, perché l'urlo è proprio questa rabbia che viene fuori, questo senso di impotenza, e che riguarda le emozioni profonde che un genitore sente nella relazione con i figli. Ed è un lavoro che bisogna fare anche questo in coppia, parlarsi di più e urlare di meno, dottor Novara. Esatto, ma proprio fra i genitori, parlarsi di più sull'educazione da dare ai figli. Adele ci chiama dalla provincia di Grosseto, benvenuta Adele. Grazie, e grazie per la trasmissione, interessante. Dunque, volevo dire questo, sono completamente d'accordo col dottor Novara, perché io ho 70 anni e vorrei tornare indietro per rieducare i figli in un altro modo, perché ovviamente da giovani perdiamo la pazienza, siamo una famiglia normale, urliamo, litighiamo, eccetera. Io ho dato molta libertà a mio figlio, perché essendo cresciuta all'estero volevo dargli la possibilità di andare in giro, di fare quello che voleva. E a 30 anni mi ha detto mi avete lasciato solo. Sì. Mia figlia, che invece non vuole saperne di andare all'estero, eccetera, eccetera, e di girare il mondo e di essere un po' più indipendente, adesso vorrebbe andare via. Sì, ha detto non mi avete spinto ad andare, tanto comunque si sbaglia, Adele. Come diceva un famoso pedagogista di alcuni anni fa alla televisione, disse non è difficile levare i figli, è impossibile. Perché se gli si dà una cosa ne vogliono un'altra, certo. E così. Però sono d'accordo, in famiglia ci deve essere serenità, parlare molto, ma non è facile in una famiglia dove per esempio hanno dei problemi di lavoro, dove la madre lavora, il padre lavora, per cui come fare? Dove ci sono tante altre preoccupazioni che intersecano. Per cui si è già tesi e ci vorrebbe un gran calmante. Che forse magari, Alberto, hai la ricetta per questo gran calmante, no, però, a cui fa riferimento la signora Adele. Adele, grazie, è stata davvero carina a intervenire. Quello buona che giornata. Dice Adele è confermato anche da un sms di Josephine di Trento: non si insegna più rispetto, i genitori sono troppo stressati per uno stile di vita dove i bimbi per primi non sono rispettati, si parla poco con i ragazzi. Antonio ci chiama da Bari. Antonio, buongiorno. Buongiorno e grazie di esserci. Questo momento io lo sfrutto perché rientro in famiglia dopo una settimana di lavoro. Sì. Senta, vorrei che spendessimo qualche parola su come recuperare il rapporto dopo aver litigato con i bimbi. Bravo. Litigato, per modo di dire. Bravo Antonio. E un'altra cosa, un'altra parolina su... Io ho un figlio di 15 e l'altro di 9, tra di loro hanno iniziato, perché sono abbastanza diversi di carattere, hanno iniziato a litigare, ma sia per cose di una certa importanza che per cavolate. Sì. Eppure tra di loro, con mia moglie, troviamo problemi poi a farli... fare pace. Rimettere. Allora, questa una la litigata... Tempo, la oppure... Scusi Antonio, perché abbiamo pochissimi minuti, vorrei dare ad Alberto l'opportunità di darle due indicazioni, anche se tra litigi tra i fratelli dedicheremo proprio una puntata. Esatto, ad hoc. Io direi seconda. Quindi... domanda è un altro tema. La prima domanda, come recuperare i rapporti dopo che si è litigato, direi proprio poter dire è bello dopo un litigio fare pace, ma forse non so esattamente come si fa a fare pace qua dentro insieme a voi. Voi come uscireste adesso da questo litigio? Diamoci delle belle idee per ritornare sereni esattamente come eravamo prima del litigio. Qua aprite un dibattito non su cosa vi ha fatto litigare, ma su cosa vi può tirare fuori da un litigio, ed è un modo molto democratico e cooperativo per costruire la pace insieme. Allora, ringraziamo Alberto, il dottor Daniele Novara, ricordo dalla parte dei genitori, Franco Angeli l'edizione, quindi se volete trarre anche ispirazione per capire qualche cosa di più, diventare più positivi nella relazione con i vostri figli, è sicuramente un libro a cui Alberto ha dato il bullino blu, per cui c'è da fidarsi. Grazie dottor Novara. Grazie a voi e complimenti per la trasmissione. Alberto. Noi ma pieni di pace. Pieni di pace, ma noi litighiamo davvero. Noi abbiamo imparato secondo me a litigare, ormai non ne abbiamo più bisogno. Peccato però. Buona giornata a voi da Nicoletta Carbone. E da Alberto Pellai.